ragazzi, solito appuntamento. 35 gradi oggi, ma i leoni non mollano, ragazzi, eccoli lì. Sono tutti lì. Qui è altro che ciupiti di Bobovir. Tutti convocati di Carlo Genta. Fabio Basile che va a fare la presa sulle Bavero, prova ad aprirsi il campo di Bassana e che fa il palle e arriva loro! Loro e di Basile con l'Impon, campione olimpico nei 66 kg, Fabio Basile. E c'è la stoccata, la conferma la stoccata, quindicesima stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico 2016 nel fioretto maschile individuale. L'abbraccio con Andrea Cipressa, CT della nazionale. Conta? Sì. Uno, due, tre. Sì! Arriva! Grande! Viva, arriva la medaglia! Sì! Ieri ci siamo divertiti un sacco, come scrive ad esempio Fausto Narducci sulla Gazzetta dello Sport, un giorno da superpotenza sportiva con 5 medaglie, 2 d'oro, compresa la numero 200 conquistata da Fabio Basile. È bellissimo che la medaglia numero 200 sia arrivata da un ragazzino di 21-22 anni sul tatami del judo. Ciao Giovanni Capuano. Sì, pensa che siamo andati a dormire, almeno quelli normali, a mezzanotte secondi nel medagliere, alle spalle sì, soltanto dell'Australia. Adesso siamo quarti, che va bene comunque, sì. Ci possiamo accontentare. Anche se siamo stati superati nella notte dagli Stati Uniti, dalla Cina, tra record, grandi prestazioni, Michael Phelps. Noi insomma questa volta nel nuoto non abbiamo fatto un granché, ma oggi, ora, in questo momento, ancora per un paio di orette, noi siamo la quarta potenza mondiale dello sport. E allora se siete in macchina, scendete, vi alzate, mano sul cuore, orgogliosi di quello che siamo, poi da questo pomeriggio vediamo. Sì, da questo pomeriggio ne parleremo, perché come sempre a doppio appuntamento con lo sport, non solo questo, a tempo di sport fino alle 15, cioè a tempo di sport tutti convocati fino alle 15, ma poi tutti convocati alle Olimpiadi alle 18 fino alle 20. 800 24 00 24 è il numero verde. Di che parliamo? Allora parliamo di 5 medaglie e un divorzio, perché ieri è stata una domenica bestiale. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. Io ho un contratto di un anno. Se la società è contenta io resto. Se i tifosi sono contenti io resto. Se no posso andare via lasciando tutto il mio contratto. Io non ho bisogno. Non starei mai all'Inter, oppure stare a casa con un contratto dell'Inter. Io ho un contratto, se non sono contenti strappiamo il contratto, a me l'Inter non mi deve niente. Però devono essere contenti tutti e capire la situazione, perché non è una cosa così banale e semplice. Non gioco più, ti assicuro. Di un suo disagio nei confronti della società, lei. Voi avete parlato. Che ha pensato di dimettersi, si è detto anche questo. Io non ho mai detto. Avete sentito qualcosa da me? Sono qua ancora? Ritieni ci deve essere un chiarimento ancora con la società? Ma io non ritengo niente, io sono qui e lavoro, come ho sempre fatto, e lavoro sempre per migliorare l'Inter. Questo è il mio obiettivo. Non gioco più, ma davvero. Io sono sereno. Sono sereno perché poi mi piace il mio lavoro, quindi lavoro, e quando siamo sul campo le cose, che magari le cose che non vanno tanto bene si dimenticano, quindi questa è la cosa positiva. E il resto non lo so, insomma abbiamo parlato, ci siamo visti, questo è stato. Mancini ai saluti tutti i paradossi della farsa Inter, scrive oggi nel suo commento la penna d'oro del calcio sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, che saluto e ringrazio. Ciao Luigi. Ciao, saluto. Ciao a tutti. come scrivi tu, situazione paradossale, il massimo paradosso sarebbe vedere De Boer, già incoronato nuovo allenatore dell'Inter, a fare il suo primo allenamento a casa di Mancini, cioè a Iesi, cosa che accadrà nei prossimi giorni. Sì, insomma, ci eravamo sentiti anche qualche settimana fa, era già pazzesca la situazione allora, adesso è precipitata. Tu mi chiedevi ti meraviglieresti se Mancini restasse, io ti dicevo no ed ero convinto che alla fine insomma avrebbe firmato poi questo rinnovo, ma la farsa ha superato la cronaca, per cui insomma quando ha visto che partiva un ausilio, l'unico che era effettivamente al suo fianco per contattare De Boer mentre lui stava firmando un rinnovo, e ausilio insomma per ragioni diplomatiche gli ha nascosto anche questo volo, ha capito che veramente non c'erano più neanche un minimo sindacale per restare a lavorare, come avete fatto sentire voi, il lavoro che ama con passione, avrebbe insomma ingoiato di tutto per portarlo avanti, ma effettivamente non c'erano più le condizioni. No, condizioni esaurite. No, condizioni esaurite, e tra l'altro a me sorprende, dico la verità, e li chiamiamo anche 800240024, che oggi in maniera abbastanza critica, generale, i tifosi dell'Inter si sentano come sollevati, come se si siano tolti di mezzo un peso e qualcuno che stesse in questo momento imbrigliando le potenzialità dell'Inter, cosa che io credo... I dati di fatto oggi sono che l'ex proprietario dell'Inter, oggi socio di minoranza in uscita, ovvero Erik Thohir, ha licenziato l'allenatore, mentre certo, l'allenatore analizzava una proposta, secondo me irricevibile, però analizzava una proposta di rinnovo da parte dell'attuale proprietà, e sulla panchina andrà uno che guadagnerà un terzo di Mancini. Ora io non dico che sia fatto tutto per risparmiare i soldi, perché sarebbe la chiave di lettura sbagliata, però questi sono i fatti, cioè non c'è nessuna garanzia oggi più di ieri, e credo a due settimane dall'inizio del campionato che anzi sia molto più forte la sensazione del salto nel buio. Sì, infatti ci sono due elementi nelle cose che hai detto, nelle cose che ha detto Capuano, Luigi. La prima è che l'opinione pubblica nerazzurra era in stragrande maggioranza fortemente critica nei confronti di Mancini, e hanno vinto loro. La seconda è che Thohir, che adesso non è più presidente, forse per la prima volta agisce da presidente senza portafoglio. Sì, è così. Non ti nascondo che da stamattina all'alba ricevo email di insulti proprio per aver in qualche modo, non dico difeso, però scritto sulla Gazzetta di oggi le ragioni di Mancini, e un po' mi sorprende proprio questo astio che c'è. Ha commesso degli errori, non ha fatto giocare bene come si aspettavano tanti, però io credo che per passare al secondo punto dovrebbero essere preoccupati più che della questione Mancini, proprio della conduzione della società. Non si è mai visto proprio che il socio di minoranza in uscita gestisca a nome del compratore una società così, e che venga gestita senza avere un riferimento tecnico. È un unicum. Io credo che giornalisticamente sia una cosa molto molto interessante, questa è la cosa che mi incuriosisce di più di questa storia, cioè è un fatto quasi simbolico, epocale forse è una parola grande, però Roberto Mancini era il simbolo proprio dell'allenatore che voleva diventare manager, no? Quando si parla, sì, di allenatore, sì, manager all'inglese. Ecco, questa figura sta per essere uccisa, perché al suo posto ora stanno arrivando invece i procuratori manager, che è l'altro aspetto, io lo trovo inquietante, cioè se è vero che ci sono, ed è vero, dei procuratori consulenti dei cinesi che stanno in Cina, tra l'altro Thohir oggi non sta a Milano, è a Rio de Janeiro con la spedizione olimpica dell'Indonesia, di cui è presidente del comitato olimpico, ma se è vero che ci sono da settimane dei procuratori consulenti che spingono per il divorzio di un tecnico a due settimane dall'inizio della stagione. Ora, io faccio una domanda ai tifosi dell'Inter, ma sono più garantiti dalle richieste magari a volte folli e sbagliate di Mancini, o dall'idea che ci siano procuratori che fisiologicamente fanno i propri interessi, che oggi stanno dettando, certo, la linea del club? Beh, come scrive Garlando, i mercanti stanno comandando dentro al Tempio, no? Secondo me stiamo trascurando questo aspetto, che invece anche giornalisticamente dovrebbe essere aggredito, perché se ci pensate non è un caso solo dell'Inter, cioè a me risulta che stasera arriverà a Milano, sbarcherà con Kia, quindi anche fisicamente arriva portato da una gente. Ma però cosa vuole fare Raiola? La sua aspirazione ormai è di fare il salto di qualità, non più di essere solo procuratore di Pogba, ma di comprare il club. L'ha detto, io avevo provato a comprare il Milan. Mendes cosa sta facendo? Sta comprando società. E quindi, ecco, se veramente poi i procuratori, questi grandi agenti, diventano proprietari della società, è chiaro che poi devono far giocare i loro giocatori, i loro allenatori. Cosa diventa poi veramente una società? Non vogliamo tornare indietro al presidente Padroni, però veramente non c'è più margine al discorso tecnico di passione. È veramente tutto investimento, guadagno, investimento, è pericoloso e ne parliamo troppo poco. No, e tra l'altro, scusate, ne parliamo e noi non abbiamo un case history di come si comportano i cinesi alla guida di un grande club, perché l'Inter è il primo grande club che prendono, il Milan sarà il secondo. In quest'estate hanno fatto qualcosa, però a questo livello ci sono Inter, Milan, e noi sappiamo come facevano gli sceicchi, i russi, gli americani, i nordamericani, gli anglosassoni. I cinesi non lo sappiamo, però è inquietante, sì, questa cosa. Però Giovanni, esiste una profonda differenza, nel senso profonda, esiste una differenza nella presentazione del gruppo che ha comprato il Milan, che per prima cosa ha chiamato Fassone, cioè un uomo comunque dentro al nostro calcio, gli ha consegnato quasi le chiavi del club, in attesa poi di definire i vari ruoli, di vedere direttore generale, direttore sportivo, eccetera eccetera. Però in quest'ottica, in ottica italiana, all'Inter chi comanda? Ausilio. Chi comanda? Toir. C'eravamo detti, Luigi Garlando, che la prima cosa da fare, acquisisci un club come l'Inter, tu sei Suning, prendi un plenipotenziario che conosca il calcio italiano e, come hanno fatto quelli del Milan, gli affidi la gestione della squadra e la scelta degli uomini, mettendo magari un tuo uomo, affiancandolo a un tuo uomo di fiducia cinese, quel che vuoi, un manager puro, quello che vuoi. Però il Leonardo della situazione, e questo ce l'eravamo detti noi, esatto, il Leonardo della situazione all'Inter non c'è. No, non c'è adesso, e non, in fondo poi non c'è stato neanche con Toir, anche se poi Fassone in qualche modo ha ricoperto quel ruolo. Però io mi ricordo, proprio appena arrivato Toir, passò in Gazzetta, quindi facemmo una tavola rotonda, io proprio gli chiesi: ma lei pensa di scegliere, delegare una persona, proprio una figura tecnica, come ha fatto Paris Saint-Germain? No, io credo che non ci sia bisogno di un one man show, mi ricordo per di più, disse così: non c'è bisogno di un one man show, decidiamo noi tutti insieme. E lì ho cominciato a fare le prime smorfie e insomma, dopo due anni siamo qua. Sì, dopo due anni siamo qua ad averne sbattuto via uno e mezzo, io credo. Esatto, con una squadra che per me, come ho scritto oggi, è da secondo posto, e Mancini era convinto quasi di arrivarci, perché questo sarà anche il suo rammario. Per cui vuol dire proprio un suicidio tecnico a gestire la società in questo modo. Molti scrivono aspetta, si è capito cosa voleva davvero Mancini, c'è chi gli dà l'arrogante. Io credo che la questione soldi sia stata sopravvalutata, discutendo di Mancini e della sua rottura con l'Inter. E approfitto di Luigi Garlando per chiedere se anche lui ha la sensazione che ci sia un altro uomo che non può reggere in questa situazione dentro l'Inter, che si chiama Piero Ausilio. È una situazione molto delicata. È vero che non è una questione di soldi, questo è facile scoprirlo, perché lui avrebbe potuto firmare il triennale e sui soldi se li portava a casa. Cioè, però nel momento in cui si punta sulle clausole non è proprio per un capriccio, perché dire: se voi mi tenete fuori dal discorso tecnico, io non posso fare il mio lavoro, me ne frega di prendere tutti quei soldi. Non si può. Cioè, ha capito che i prossimi anni sarebbero stati cercare di mettere insieme i giocatori che gli davano. L'allenatore deve fare qualcosa di diverso. E Ausilio è in una situazione delicata, perché in scadenza a settembre. E chiaramente, come dire, se gli dicono vai e prendi De Boer, e lui prende parte e vola, perché anche famiglia, e fa fare il suo mestiere. Magari ci sarebbe stata una telefonatina a Mancini per dirgli: Roby, mi chiedono di fare così, perdona, io vado, ecco, forse con rapporto di amicizia, così però lo capisco anche la posizione di Ausilio. Infatti poi ieri sera si sono chiamati, si sono spiegati, quindi hanno fatto insomma un po' la pace. Però effettivamente Ausilio non è in una situazione delicata, perché nel momento in cui lui dice io voglio, sono il direttore sportivo, scelgo Mancini, e uno sopra di te ti dice no, vai a prendere De Boer, anche lui come fa a fare il suo lavoro? Certo. Grazie Luigi. Niente, grazie a voi. Grazie Luigi Garlando, alla prossima. Comunque Giovanni, era chiaro, è chiaro che era un rapporto ormai disintegrato, eh? Quindi, sì, però, quindi da un lato è meglio, forse paradossalmente è meglio risolverlo subito, risolverlo io adesso. Io credo che il tema non sia il rapporto tra Mancini e Toir, era disintegrato e si era già capito a maggio. Il primo file che abbiamo sentito, quello io non sto qui con un contratto dell'Inter, se piaccio resto, altrimenti posso anche andare, era di maggio. Ed era già lì, era tutto chiaro, il mal di pancia, anzi paradossalmente si poteva anche fare prima e si sarebbe persa un'estate. Il tema è oggi chi comanda dentro l'Inter e chi comanderà nei prossimi mesi e qual è il piano dei cinesi, perché questo magari quello sappiamo. Di Mancini non piaceva ai tifosi e secondo me sbagliavano, 800 24 00 24, ma almeno quello era un progetto tecnico. Quello che arriva che progetto è? Ci fermiamo per il traffico, Antonio e Gianni sono già in linea, 800 24 00 24 è il numero verde, non so se scopriremo tra poco se fanno parte della maggioranza che non interista, dell'opinione pubblica interista che non poteva più sopportare Roberto Mancini. A proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... In radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati. Convocati. Tra l'altro adesso Frank De Boer si troverà alla guida di una squadra che è profondamente manciniana, che è stata costruita da Mancini, prendendo giocatori giusti oppure anche sbagliati, spendendo anche dei soldi, però è la squadra di Roberto Mancini. Torno a ripetere, il rapporto tra Mancini e Toir, gli agenti orientali, la nuova proprietà dell'Inter, insomma questo tipo di relazione non esisteva più. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, allora vi ringrazio di cuore che mi avete chiamato. A lei. Mi scuso se... ma sono molto emozionato, è la prima volta che parlo per radio. Ma quindi sono amici, ma stia tranquillo. Mi sento bene, mi sentite bene? Sì, la sentiamo bene. Vai tranquillo Antonio, benissimo. Vai. Allora, guarda, sono un tifoso interista e sono incazzato nero. Allora, innanzitutto una breve premessa. Noi tifosi interisti dovremmo fare un monumento grande, ma immenso, alla famiglia Moratti. Perché un presidente così, padre e figlio, non l'avremo mai più. Che se ne dica, può darsi che hanno lasciato i debiti, hanno lasciato la società in cattive acque, però quello che ci hanno fatto vincere i Moratti non ce lo farà vincere nessuno. Questo già per dire di come mi pongo nei confronti dell'attuale proprietà, che detto fra noi non so cosa sono venuti a fare in Italia questi cinesi e questo Toir. Non capiscono niente di calcio, non hanno intenzione di investire, non so cosa sono venuti a fare affari, ma magari hanno anche intenzione di investire, non so quanto... Ma cosa, quest'anno non hanno certo investito, perché io qua per investimenti li paragono chiaramente agli arabi. Per me investiscono i padroni del PSG, del Manchester United, del Manchester City. Loro non investire, cioè se dovevano investire loro tanto vale che prendevamo un qualsiasi Pinco Pallini in Italia e faceva gli stessi investimenti. Allora, vabbè, però Antonio, il Pinco Pallini in Italia non c'era. Moratti non se la sentiva più di andare avanti e ha lasciato un disavanzo non da poco con relativi problemi di fair play finanziario eccetera eccetera, questa è un'altra ragione per... poi se lei dice investimenti quelli degli arabi o dei russi o di Abramovic eccetera, quelli non sono investimenti, sono semplicemente proprietari enormemente ricchi che si prendono chi ne hanno voglia. Quindi guarda, c'è un amico che scrive: la storia d'allenatore di De Boer vuol dire un progetto tecnico, ovvero le nozze con i fichi secchi. Un altro invece dice: la verità è che chi comanda ha mandato via Mancini e ha preso il nuovo progetto tecnico, che ha un nome, quello di De Boer. De Boer è potenzialmente un ottimo allenatore, anche se in realtà viene da due stagioni pessime all'Ajax, l'ultima chiusa in maniera surreale con uno scudetto perso quando era già vinto all'ultima giornata. Con l'Ajax aveva vinto prima quattro titoli consecutivi in Olanda e va tutto bene. Il problema è, al di là del salto nel buio evidente di un cambio di allenatore a due settimane dall'inizio della stagione, il problema è che i primi 60 giorni di Suning hanno dimostrato in maniera palese che nell'Inter oggi non esiste una testa pensante, un progetto tecnico, magari quello economico e finanziario c'è, non è vicino alla squadra, non è in Italia e è pericolosamente vicina magari ad altri interessi, perché come ci diceva Luigi Garlando, De Boer che sbarca con un procuratore che non è il suo tra l'altro, ma che fa il consulente della proprietà dell'Inter, secondo me non è un'immagine che deve in assoluto tranquillizzare i tifosi dell'Inter. No, sono d'accordo, quello che aveva detto Luigi Garlando è un aspetto che andrà approfondito, perché il peso specifico di questo procuratore, cioè Chia, in questo momento all'Inter è superiore a quello, non ti dico di De Boer, Mancini è andato via, è superiore a quello di Ausilio ad esempio. Gianni, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Io volevo collegarmi a quanto detto dal tifoso interista precedentemente. A me non preoccupa l'aspetto tecnico, non mi interessa niente dell'aspetto tecnico, a me interessa l'aspetto finanziario. Io ho la netta impressione che i cinesi, che guarda caso in 4 giorni hanno rilevato Inter e Milan in pochissimo tempo, e alle spalle hanno addirittura il governo attraverso una loro controllata, stanno incominciando a svuotare di interesse dal punto di vista calcistico, visto che industrialmente l'hanno già fatto da almeno un decennio, il calcio europeo. Questi vogliono il giocattolo a casa loro e a noi lasceranno le briciole. Per giocattolo a casa loro intende? È l'equivalente della Champions League, che effettivamente è quello che ha maggior interesse oggi calcisticamente. Cioè la FIFA World Cup, onestamente, per come... tra scandali, scandaletto, organizzazione, ormai ha perso notevolmente l'interesse. Le ultime 2 finali sono state imbarazzanti per come ci si è arrivati e per come sono state giocate. Oggi, se vuoi vedere una partita, devi andare a vedere dai quarti di Champions League in poi. Sì, quando ci sono le squadre che possono permettersi tutto quasi, no? Se parliamo di investimenti, la Juventus ha fatto investimenti progressivi, molto dispendiosi, però è entrata stabilmente in quella elite. Ripeto, non si può fare la corsa su arabi e russi, perché quello è impossibile. Poi dal punto di vista finanziario hanno giocato da casa loro, i cinesi sono qui per fare affari e quindi hanno certamente i loro interessi, vogliono arrivare ad organizzarsi in casa il mondiale del 2026, cos'è Giovanni? 2030, vogliono arrivare ad organizzarsi il mondiale del 2030, ci sono interessi governativi intorno al calcio, i club cinesi come sappiamo da alcuni anni stanno prendendo tutto quello che gli capita di nomi grossi magari un po' passati come età, però la realtà è questa, ma ha ragione Capuano quando dice siamo al debutto per quanto riguarda delle proprietà cinesi in grandi club europei. Siamo al debutto e quindi osserviamo da cronisti, registriamo e proviamo ad analizzare, e io non so chi possa oggi dire che i primi 60 giorni di Suning, i primi 50 giorni sono senza ombre, hanno un giudizio chiaro, netto, positivo, non danno invece il segno che ci sia insomma qualcosa su cui discutere. Ivano? Facciamo Ivano? Ivano, Massimo, Edo, Ivano. Ivano. Buongiorno, salve. Salve. Sono Ivano da Pompei, tifosissimo del Napoli. Volevo fare 2 domande veloci. La prima è un giocatore che abbiamo comprato, Milik, che abbiamo pagato un po' caro. Deve giocare obbligatorio titolare oppure va bene in panchina? E poi oggi se dovrei giocare capocannoniere, Dzeko della Roma, mi consigliate? Grazie e un saluto a tutti, anche dai miei figli. Li saluti, contraccambi i saluti. Io Dzeko capocannoniere non lo giocherei. Io neanche Dzeko capocannoniere non lo giocherei. Quanto a Gabbiadini, vediamo. Ieri ne ha fatti 4. Non so se Milik debba giocare per partito preso. È stato pagato diversi soldi. È un buon giocatore, è molto giovane. Dovrà ambientarsi nel nostro campionato. Però poi parliamo di Manolo Gabbiadini. Ho l'impressione che fare il centravanti nel Napoli sia un bel mestiere. Sì, e tra l'altro Napoli che ha fatto 8 gol in 2 partite a 2 squadre interessanti del campionato francese. Uh-huh. Io non credo che questa rosa dell'Inter sia necessariamente da secondo posto, perché non credo che sia così scontato che il Napoli si sia indebolito avendo ceduto Higuain e sia una squadra oggi meno forte dell'Inter. Però è evidente che con un minimo di coerenza l'Inter in questo momento è costruita per poter prendersi uno dei posti che vale la Champions League o il preliminare di Champions League. Guarda, la verità è che i cinesi vogliono fondere in un'unica società Inter e Milan, con le maglie rosso, nero e blu, cosa che tra l'altro era stata fatta per alcune amichevoli in epoche lontane. Lascia Massimo stare. Da Taranto, Massimo. Salve, grazie per avermi convocato. Io volevo esprimere tutte le mie perplessità sull'allontanamento di Mancini, innanzitutto, che mi sembra una follia. Sulla presenza dei cinesi, che mi sembra una cosa sovrannaturale, cioè questi qua vengono, dicono forza Inter senza sapere neanche che cos'è l'Inter. Io forse perché ho 50 anni, penso ancora a Beccalossi, a Muraro, ad Altobelli, non lo so. Però mi sembra che il calcio stia andando, soprattutto per quanto riguarda l'Inter, in una direzione sbagliatissima. Cioè, saranno i soldi, la mancanza, però non mi sembra che Manchester City o Paris Saint-Germain in Europa abbiano vinto chissà che cosa con i soldi degli arabi. E quelli che vincono sempre sono gli spagnoli, che conservano la loro identità e non si lasciano condizionare e non lasciano comprare nessuno. E hanno comunque molti soldi, sebbene per vie diverse, sono gestiti in maniera diversa Real Madrid e Barcellona. Ma dove sono i critici di Mancini? Infatti, 800 24 00 24, cioè, abbiamo un'opinione pure, o sui social network scrivono una cosa e poi ne dicono un'altra, oppure... mi domando dove siano i detrattori di Mancini, quella parte cospicua che ritengo maggioritaria, sei d'accordo con me, dell'opinione allora, pubblica nella zona. Chiamate e convinceteci che è stato bene mandare via Mancini, perché noi non siamo convinti. Edo, buongiorno. Buongiorno, per me è un piacere far parte di questa schiera, ma perché vorrei analizzare freddamente le cose come sono accadute nell'ultimo anno e mezzo, ovvero Mancini con una squadra ben migliore del buon Mazzarri ha portato dei risultati scarsi, se non pessimi, soprattutto nella seconda metà del campionato, dove praticamente non abbiamo mai vinto. Anche perché la prima l'Inter era in testa alla classifica. Esatto. Mm-hmm. Quest'anno la società nel corso della fine del campionato e questa parte iniziale di questo precampionato ha comunque fatto degli acquisti interessanti, Andrea, Banega e via dicendo. Il problema è che Mancini, fin dall'anno scorso ormai, quindi specifico, si è lamentato continuamente fino a ieri di tutto quello che stava accadendo e sicuramente non trasmetteva tranquillità a una squadra comunque composta anche di giovani. La formazione secondo me era molto lontana. C'è un altro aspetto che può essere anche, si può leggere anche in maniera diversa. Quando la società toglie, delegittima un allenatore, i giocatori, giovani o meno giovani, lo mollano. Questo è un altro aspetto di cui tenere conto e si può leggere anche così il 6-1 dell'altro giorno, per quel che può contare o non contare dopo un'estate abbastanza pazzesca dell'Inter, tra un aereo, una amichevole di qua e una di là, ma vale per tutti i grandi club. Quando un allenatore è esautorato dalla società e tutti sapevano come sarebbe andata a finire questa situazione, certo non si massacrano. No, io poi avrei una domanda. A fine giugno abbiamo sentito Toir dare voce alla nuova proprietà e fare alcuni nomi, Berardi, Gabriel Jesus, il progetto dei giovani, magari Joao Mario. Per carità, magari Mancini non è un allenatore bravo a valorizzare i giovani, a lavorare con quelli su cui deve investire tempo per migliorarli. Oggi siamo all'8 agosto. Mi ricordate il nome di uno del progetto giovani e non ragazzi la primavera, gente da investire 20, 30, 40 milioni di euro che sia arrivato all'Inter? Ma ne ha parlato Toir. Adesso Toir è presidente senza portafoglio, nonostante per la prima volta nella sua presidenza nerazzurra abbia preso questo tipo di decisione, perché ricordiamo l'allontanamento di Mazzarri e l'arrivo di Mancini erano stati caldamente consigliati dal vecchio presidente, cioè da Massimo Moratti. Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Dica. Ora io vorrei provare a fare un gioco con voi, no? Facciamo finta che chiunque di noi fosse un intermediario o un ambasciatore di Suning, insomma, che prende in mano i conti dell'Inter, acquisti, cessioni, tutto, e vede tutti questi acquisti che l'Inter ha fatto in quest'anno e mezzo. Tanti terzini, tanti centrocampisti, più o meno forti, comunque li vede. E l'anno dopo si vede richiesta ancora acquisto di altri tanti giocatori. Voi cosa avreste fatto? Cosa avremmo fatto? Se tu ti riferisci agli acquisti di Mancini, Io credo che il bilancio dei mercati di Mancini non sia poi così negativo, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista numerico e dal punto di vista dei risultati di campo, perché poi l'Inter l'anno scorso è arrivata quarta, ha fatto un pessimo girone di ritorno in cui Mancini ha grosse responsabilità, sì. Ma io ricordo, e non è una tesi difensiva, che se anche Mancini con l'Inter quest'anno avesse fatto il girone di ritorno come il girone d'andata, 39 punti, primo in classifica, quindi inattaccabile dal punto di vista della critica, sarebbe sempre arrivato quarto, perché poi quest'anno gli altri erano più attrezzati, il secondo posto è andato via a 82 punti, il terzo a 80, come non era mai capitato. Quindi spiegare che il motivo del fallimento dell'Inter è non essere arrivati dentro la zona Champions quest'anno, secondo me Non è completamente corretto. E poi a me sembra che da questo punto di vista l'eredità che lascia Mancini sia un'eredità importante. Cioè Mancini lascia la squadra di Perisic, Banega, di Brozovic, di Kondogbia, di Murillo, di Miranda, che sono acquisti arrivati magari anche perché lui è uno abituato a chiedere tanto. Penso che questo però sia una garanzia per i tifosi. Questo può essere anche un pregio. Non è detto che sia per un tifoso, non è detto che sia... che sia uno svantaggio avere un allenatore che comunque induce la, contatta gli stessi giocatori e induce la società comunque a fare degli acquisti per rinforzarsi. Non tutti sono stati grandi colpi, i soldi spesi sono stati parecchi, però questa rimane comunque l'Inter di Mancini che viene consegnata a De Boer, perché è una squadra costruita da Mancini e una squadra con le caratteristiche volute da questo allenatore che adesso non c'è più. Borsa, guarda, adesso io cado dalle nubi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Il mondo visto dai ragazzi. In questi mesi Radio 24 ha dato spazio alle voci di Radio Immaginaria, una web radio gestita da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. L'appuntamento dal vivo è per il 10 e 11 settembre con la Team Parade a Castel Guelfo di Bologna. Un meeting sul lavoro spiegato dagli adolescenti. Ci sarà anche un evento speciale con il nostro Federico Taddia. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Prova ad andarsene Gulam, va da solo, palla in profondità, Gabbiadini! 1-0 Napoli! Gabbiadini ha segnato dopo 3 minuti di gioco. Hamsik, buona la palla in profondità, Gabbiadini per il gol, per il 2-0, ancora lui. Callejon che rientra, calcio di rigore, inevitabile. Fallo su Callejon. Parte Gabbiadini, 3-0, la tripletta di Manolo Gabbiadini. Insigne dentro e arriva il 4-0 con il poker servito da Manolo Gabbiadini. Gabbia gol, ieri sera 4 gol al Monaco, una bella forma smagliante perché si vede addosso un filo di grasso a differenza di un altro giocatore di cui stiamo per parlare, e sapete a che mi riferisco. Ogni gol sottolineato dalla faccia senza sorriso di uno cui sembra che gli sia morto il gatto. Questo è un altro aspetto da chiarire. Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno. Gabbiadini non ha mai sorriso che io ricordi dopo un gol. No. Il massimo della reazione che gli ho visto è stato a Frosinone-Napoli quando si arrabbiò. Beh, ma diciamo che c'ha da ridere? Cioè, uno che per 2 anni è stato la riserva di Higuain, c'ha poco da sorridere, no? Ma adesso è titolare, no? In verità Benitez lo faceva giocare molto spesso in coppia con Higuain, e tra l'altro le cose funzionavano bene. Lui fa 9 gol in 6 mesi, insomma le cose migliori le hanno fatte vedere entrambi giocando insieme, e poi è stato Sarri a relegarlo a centravanti di scorta. Va detto che il giocatore ha questo pregio e questo difetto, cioè un'emotività molto controllata, per cui l'abbiamo visto appunto fare un anno panca senza avere mai nessun tipo di reazione negativa, di reazione che potesse spostare lo spogliatoio. Allo stesso tempo adesso lo vediamo insomma non esultare particolarmente, anche perché poi io non sarei contentissimo che se ne vai in si fanno in 4 i dirigenti per comprarne per comprarne un altro, insomma. Ma Boris, ma tu hai l'impressione, io ho questa impressione, devo dire la verità, io ho l'impressione che il Napoli De Laurentiis testardamente continuino a cercare Icardi più per una questione di piazza. Cioè, io ho l'impressione che se fossero un attimo più freddi e lucidi, si accorgerebbero che davanti, una volta preso Milik, quindi già fatta la scommessa su un giocatore potenzialmente da 15 gol, il Napoli è a posto così. Anche perché sennò a Gabbiadini giustamente viene il mal di pancia e non sorride, anche se non l'ha mai fatto, però il mal di pancia gli è venuto il mal di pancia nei mesi scorsi. No, soprattutto perché l'8 agosto tu Gabbiadini non lo vendi più a 25 milioni di euro se compri Icardi. Io però sono un po' più cattivo, io credo che la trattativa di Icardi venga mandata avanti per tenere buona la piazza, ma non c'è nessuna volontà di comprarlo, come credo non ci fosse grande volontà di comprarlo, di comprare neanche Candreva. Diciamo che ci sono magari situazioni in cui come a poker si alza la posta per far spendere di più il pollo terzo, diciamo, ecco, sì. Sono situazioni che nelle trattative funzionano, ma io non credo moltissimo in un De Laurentiis che spende 33 milioni di euro per un attaccante e quell'attaccante poi va a fare la riserva. Non l'ha mai fatto in 12 anni, non vedo perché dovrebbe iniziare adesso. Sì, poi come dicevo prima, la sensazione è che Gabbiadini non farà 36 gol, però fare il centravanti in questo Napoli sia un bel mestiere, sia un gran bel mestiere. Mi hanno preso per matto, soprattutto gli juventini, quando ho detto che Gabbiadini può fare, un Gabbiadini in forma può fare 25 gol, e che a mio parere bastava guardare i gol che ha fatto in campionato con Benitez, Higuain, cioè 17 e 18, i gol che ha fatto con Sarri 36, per quasi matematicamente capire quanto fosse merito di un Higuain molto in forma, che magari ne ha fatti 7, 8, 9, 10 in più, perché era una grande stagione, e quanti però fossero merito del gioco del Napoli. Cioè, mi sembra evidente, poi anche qua è calcio d'agosto, non dobbiamo esagerare, cioè non dobbiamo esagerare, Napoli va a giocare contro due squadre francesi, le domina, ma anche perché le squadre francesi giocano in maniera molto aperta. Io temo che il Napoli con quel gioco continuerà ad avere problemi con il Crotone di turno, con tutte quelle squadre che invece si chiudono, cioè nessuno giocherà come abbiamo visto giocare ieri il Monaco. Sì, vediamo. Però, insomma, però che il Napoli sia una squadra che gioca straordinariamente e che paradossalmente senza Higuain gioca meglio, perché non c'è un elemento tra virgolette di preziosissima indisciplina tattica, questo mi sembra evidente, e mi sembra evidente che, come dici tu, fare l'attaccante in generale, l'attaccante, perché poi in generale l'attaccante sia un bel lavoro, così come in tutti questi anni ho continuato a ripetere che fare il centravanti nel Milan, ma anche nell'ultima Inter, era un mestieraccio, farlo nel Napoli invece un gran bel lavoro. Ha parlato Allan su Gabbiadini e su quell'altro di cui tra poco parleremo e di cui Sollazzo sul Giornalettismo ha scritto già ieri per te in tempo utile, subito dopo il debutto, con una maglia bianca che, come sottolinea Ulisse, in fondo ingrassa un po', questo è vero. Allan. Manolo, sempre chi ha chiamato in causa, ha fatto vedere le sue qualità, noi abbiamo fiducia in lui, il gruppo lo sa che possiamo contare su di lui, e lui ha fatto vedere, ha fatto 4 gol, ha fatto una grande partita, siamo contenti per lui. L'anno scorso la squadra non c'era solo Gonzalo, c'era tutto un gruppo che tutti quelli che hanno giocato hanno sempre dato tutto. Quindi quest'anno proviamo a far vedere che la squadra non c'era Gonzalo Dipendenza, e sì, un bel gruppo che lavora sodo tutto l'anno per fare grandi partite e una grande stagione. Dobbiamo dare fiducia, dobbiamo dare tempo, perché è venuto di un campionato differente, quindi ha fatto vedere già delle qualità importanti, e spero che possa darti una grande mano durante la stagione. Allora, ieri debutto, questo era Allan, debutto di Higuain a Londra con la maglia per l'occasione bianca con maniche zebrate della Juventus, terza maglia che a Capuano piace, a me no, però è subito spuntata quella foto di Higuain con il pallone tra i piedi, ha giocato il secondo tempo col pallone tra i piedi e ACP, una maglietta un po' troppo aderente che lasciava intravedere un certo rotolino. Boris Sollazzo. Immagino che tu abbia un computer, vai a vedere Napoli-Frosinone, quindi la partita in cui lui fa il record e fa una tripletta. Ho twittata ieri il paragone, sì sì sì. Esatto, la pancia di Higuain, mi piacerebbe pensare che Higuain adesso diventerà Giuliano Ferrara e che quindi non segnerà neanche un gol. Purtroppo da tifoso napoletano so che lui a tutti i ritorni, dai riposi, dalle ferie, arriva, come faceva d'altronde pure Maradona, con 3, 4, 5 kg in più, ma per la classe che ha, per il fisico che ha, per l'esplosività tecnica che ha, è una cosa tendenzialmente non molto influente. È stato secondo me imprudente Allegri, che magari spinto dalla società gli ha fatto giocare una partita che non doveva giocare, ancora una settimana che si sta allenando. Higuain fra un mese sarà il solito Higuain. Non è mai stato il fisico perfetto il suo, se non è Cristiano Ronaldo, però è quello che dicevo, insomma, in passato sono una serie di comportamenti poco professionali che a Napoli si poteva permettere, e lo dico dispiacendomi, perché se Napoli non è una squadra totalmente vincente, anche se insomma i trofei che non ha vinto la Juventus negli ultimi anni l'ha vinto il Napoli in Italia, è per questo, perché magari tollera determinati comportamenti. Io credo che nel momento in cui lui tornerà dalle vacanze di Natale e tornerà come a lui fece l'anno scorso, con 2-3 kg in più, poi si è pure offeso con De Laurentiis, che ha detto quello che ieri ha detto tutto il mondo, alla Juventus non saranno così contenti, perché alla Juventus non lo permettono. E mi sembra quella di ieri una cosa che dà solo un'indicazione: Higuain non è cambiato, non è ancora cambiato probabilmente, ed è l'unica cosa per cui io non sono sicuro che la Juventus abbia fatto un buon affare. Poi, ripeto, attaccarsi a quella foto è ridicolo, perché Higuain da quando gioca, cioè ormai da 13-14 anni, ha questo ritorno dalle ferie estive. Mm-hmm. Quindi tu dici Juventini, mi sembra paradossale che tu dica Juventini, state tranquilli, non so se lo dici per punzecchiare o magari per tirargliela, o perché lo pensi davvero? Ma basta vedere la partita di ieri, adesso tutti ci siamo attaccati a quella foto, poi se vedete invece la partita di Higuain fa vedere 3-4 cose molto interessanti per un giocatore che ancora non ha gli automatismi della squadra in cui gioca, che entra nel secondo tempo, a un certo punto fa una discesa, recupera un pallone, fa un assist, mi sembra che già abbia dimostrato, voglio dire, Higuain torna l'anno scorso dal vacanze di Natale in Argentina con 3 kg in più e segna 6 gol in 6 partite. È proprio quel tipo di giocatore, voglio dire, adesso chiaramente l'unica cosa che hanno di simile è che iniziano tutte e due per l'H, ma lo sappiamo tutte e due, lo sappiamo tutti che Hübner fumava durante l'intervallo e questo non gli impediva di segnare come un pazzo. Con le debite proporzioni ci sono dei bomber che non hanno bisogno di una vita regolarissima, ecco, a livello di alimentazione e di salute. Beh, comunque meglio tornare alla dieta dei frutti di mare che aveva asciugato Higuain. Ma per gli juventini meglio di sì, per te meglio di no, a te piace Ciccione. E poi dubito che prima o poi sentiremo Allegri, Marotta o Paratici o Agnelli dargli del chiattone. Però se vi ricordate a Torino queste cose le regolano diversamente, Boris. Non è tanto vero, se vi ricordate andate a ripescarvi che cosa dicevano di Vidal, anzi sì, sono ancora più cattivi, forse non lo dicono in maniera pittoresca e folcloristica come De Laurentiis, ma in verità dito che a Torino i panni sporchi si lavano in famiglia non è tanto vero, cioè se uno fa tardi il giorno dopo l'allenatore o il DS lo dicono in pubblico e dicono perché l'hanno mandato fuori rosa, che per me è anche giusto. Ma sai, anche perché certe cose poi si scoprono, non è che... Perdonatemi, è anche più professionale. Cioè, io trovo più professionale una società che prende e mette fuori rosa per 15 giorni, una settimana, un mese, 6 mesi, quello che vuole. La Juve l'ha fatto 1000 volte, ma non solo. Un giocatore perché non si è comportato bene... piuttosto che quel passaggio dialettico lì, cioè quello è un limite di De Laurentiis, è inutile che ci giriamo intorno, Boris, l'abbiamo detto, lo ripetiamo oggi vediamo, facciamo una scommessa, capiremo come Higuain sarà trattato dialetticamente parlando se e quando tornerà con i 2-3 kg in più dalle con vacanze di Natale con qualche mattoncino in tasca. Boris, ti ringrazio, ci sentiamo presto. A presto, ciao. Buon appetito. Ciao Boris Sollazzo. Traffico, torniamo con Mario Roberto. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Convocati. Allora ragazzi, sempre sulla condizione di Higuain, vi faccio sentire cosa ha detto Allegri. Higuain ha fatto una buona partita. Higuain è un giocatore che, nonostante che è indietro di condizione, perché è partito in ritardo, come sono indietro gli altri, quelli sono tornati agli europei. Quindi al momento abbiamo due gruppi di lavoro, dove c'è un gruppo che sta meglio fisicamente e l'altro che sta un po' peggio, ma credo che sia, è normale. Però nello stesso tempo ha fatto 3-4 movimenti dove dimostra che è un giocatore di altissima qualità. È normale che va conosciuto, perché anche oggi si poteva trovare meglio. Non gli ha dato esattamente del ciccione, no? No, ma no, io credo anche che prima o poi Higuain dovesse mettere piede in campo. Mancano 2 settimane all'inizio della stagione, è ovvio che lui è in ritardo, però insomma le amichevoli si fanno anche per quello, e Higuain ha bisogno di cominciare a entrare nei meccanismi della Juve, e quindi ben venga anche faccia 40-45 minuti fuori condizione atletica, questo era assolutamente evidente, però provando a cominciare, almeno non usando l'area del campo, a disegnare, esatto, sì, a capire come cosa succede alla Juventus. Mario, buongiorno. Grazie per la convocazione. Dica. E approfitto anche per fare i complimenti al dottor Sollazzo, che ha una competenza calcistica pari alla grandissima competenza cinematografica. Il dottor Sollazzo, glieli facciamo noi dopo. Grazie. Io diciamo, chiamavo per una questione generale, prendendo spunto da Mancini, sul ruolo dell'allenatore. L'allenatore bravo è quello che trasforma l'acqua in vino, cioè che con il materiale che ha fa il meglio che può. Poi magari può chiedere degli acquisti per migliorare, eccetera, ma se non glieli danno non si può impuntare. Cioè, sono bravi tutti a fare l'allenatore con i 20 migliori giocatori del mondo. Cioè, il problema di Mancini è che non è stato accontentato degli acquisti. Pazienza, continua a fare il lavoro con quello che hai. Ma a me sembra che sia stato anche accontentato. Ma Mario, a parte che il problema stiamo cercando di spiegare che non è quello, però... chi è ritenuto in maniera quasi unanime il miglior allenatore del mondo? Guardiola. Guardiola fa il mercato dei club in cui allena. Guardiola quest'inverno, da ancora da allenatore del Bayern di Monaco, durante le vacanze, durante la sosta, ha preso l'aereo ed è andato a fare il mercato per il Manchester City. Mourinho, che non è un altro che insomma considerato scarso, fa il mercato per i club in cui allena. Ancelotti non è che si fa fare il mercato e poi assembla quello che gli viene portato. Io continuo a dire, capisco, perché poi è discutibile tutto. Le richieste di Mancini potevano essere sbagliate, non avere un senso per i risultati che ha fatto nell'anno e mezzo in cui è tornato ad allenare l'Inter, però erano legittime. Cioè, l'idea di sottopogli un rinnovo di contratto con scritto nero su bianco che non doveva avere un ruolo in capitolo sul nella mercato. Costruzione della squadra è un non senso. Mandate quel contratto e fatemelo firmare a un altro allenatore dei 15-20 che allenano i top club d'Europa. Vediamo chi lo firma. No, ma poi voglio dire, Guardiola non è che fa spendere poco alle sue squadre. Mourinho non è che si accontenta di pizze fichi. Conte, Fangal. Lo stesso Ancelotti. Poi Real Madrid è una situazione sui generis, perché lì gli comprano di tutto e poi gli dicono devi farli giocare insieme. E allora lì è una situazione diversa. Però le grandi squadre sono quelle che vincono. E io credo che l'allenatore abbia diritto di avere voce in capitolo sui giocatori che gli vengono comprati. Non è che può abbassare le orecchie e dire ma sì, fate voi e poi ci penso io. Questo è un discorso che può valere per squadre di medio-basso livello, per le grandi squadre non può certo essere così. Roberto. Sì, buongiorno, salve, buongiorno. Grazie. Io intervenite sull'Inter e sul Milan acquistate dai cinesi. La sensazione, chiedo di essere smentito, è che questi signori abbiano acquistato soprattutto il brand, il marchio, e non vorrei appunto che portassero questo marchio là in Cina. Cioè, ci troviamo un Milan cinese, un Inter che giocano un campionato fantomatico in Cina fra qualche anno. Guarda, io non credo, no, questo non è possibile. Può essere più interessante a livello di brand, e questo ha un senso invece. Tutto ciò che riguarda operazioni correlate, ad esempio in Cina si stanno costruendo decine di migliaia di academy e evidentemente è un valore aggiunto costruirle con un brand che è assolutamente riconoscibile per centinaia di milioni di tifosi, questo sì, però poi, Inter, scusa, e Milan continueranno a giocare nel campionato italiano, Giovanni, anche con i cinesi e anche dopo i cinesi. Questo non ci sono grandi discussioni, non ci possono essere grandi discussioni. Però il brand certamente interessava ai cinesi per queste e altre ragioni. Hanno acquistato il brand, ma non solo. Devono stare però attenti a non svalutare ciò che hanno acquistato, cioè il brand di due squadre che vincenti non lo sono più da un pezzo. Vincente invece Mourinho ieri allo United. A proposito di allenatori che vengono accontentati, Pogba è a Manchester, fa le visite mediche, questa storia di cui si conosceva già al finale è arrivata al punto, dunque Pogba è dello United ed è il record assoluto di mercato per quanto riguarda la valutazione. Mourinho è un grande giocatore, sì, arriva la confermazione, è un grande giocatore, penso che con Bailly, Mkhitaryan, Pogba e Zlatan abbiamo la spina della squadra, un difensore centrale, un centrocampista, un creativo e un centroavanti. Io penso che un mercato molto molto positivo per noi. E non gratis, eh? No, non gratis. E non gratis, così insomma. E non credo che a Mourinho Pogba sia stato imposto. No, e neanche no. Ibrahimovic, e neanche Bailly, e neanche Mkhitaryan. Non lo so. Io... Giocatori che lui aveva chiesto, cioè, arriva il nuovo allenatore, perché questo diciamo dall'inizio sarà un mercato esplosivo. Si sta dimostrando un mercato esplosivo quanto ai trasferimenti e quanto al denaro che gira, ma anche perché la maggioranza dei nuovi top, dei top club ha nuovi allenatori. Il nuovo allenatore arriva e chiede i regali, non soltanto Mancini. Non può chiedere grandi regali Ranieri del miracoloso Leicester, che ieri ha perso, come sapete, il Charity Shield, quindi primo trofeo per Mourinho, che non rimarrà quest'anno a zero titoli, e gol di Ibra in posizione un po' sospetta, però tant'è, il 2-1 l'ha firmato lui, Ranieri. Il risultato premia loro, complimenti a loro, però io ho rivisto la mia squadra, non stiamo al 100% perché quando stai in preparazione non puoi essere al 100%, però siamo sulla strada buona. Dovevamo essere forse un pochettino più cattivi, perché quando andavamo via noi loro facevano falli tattici, e alcune volte i falli tattici vanno un pochettino menzionati con un cartellino giallo, e invece non è stato così, per cui lì dovevamo fare un fallo tattico, perché si capisce quando un giocatore prende il momento giusto per venirti a far male e tu li devi chiuderlo. Purtroppo è stato molto bravo, non posso dire nulla sui miei giocatori, hanno fatto veramente un'ottima partita sotto l'aspetto del sacrificio, come gli avevo chiesto. Vedi, per Ranieri ad esempio il colpo del mercato è stato trattenere quelli che aveva già. Sì, e secondo me tra l'altro il Leicester ieri è stato sorprendente, ha giocato bene, se l'è giocata. È anche stato sfortunato al di là del gol in fuorigioco e insomma Ranieri è un grande allenatore. Stavo leggendo il tweet di Mancini: oggi termina il mio impegno professionale con l'Inter, soluzione condivisa con il club in totale serenità. Questo ha scritto Roberto Mancini. Alberto, buongiorno. Buongiorno. niente, io vi seguo appassionatamente tutti i giorni quando torno dal lavoro. Io volevo parlare a proposito di Mancini, che effettivamente, insomma, guardando un po' i risultati, l'anno scorso cosa ha fatto? Subentrando a Mazzarri, ha inserito degli elementi nuovi che lui ha richiesto, eppure non ha combinato tanto più di quello che ha fatto Mazzarri. Quest'anno ha fatto la squadra lui, o perlomeno l'anno scorso per quest'anno, aveva rifatto la squadra lui, e i risultati, voglio dire, sono un quarto posto risicato, ma a tanti punti di distanza dalle prime. Quindi a me personalmente, come tifoso interista, a parte che Mancini non mi è mai piaciuto, però io posso capire, non è neanche epidermicamente molto simpatico. I risultati però dicono, insomma, ha fatto una prima mezza stagione 2 anni fa non positiva, l'anno scorso un grande giro d'andata, perché è obiettivo al di là della storia degli 1-0, E quest'anno era il terzo anno, cioè quello in cui secondo me l'Inter poteva fare quello che andava fatto, cioè arrivare a seconda visto il valore in campo. E comunque l'Inter di Mancini nella stagione completa ha fatto 7 punti più dell'Inter di Mazzarri arrivata al quinto posto. Sono pochi, sono tanti, io non lo so, sì, però se il prossimo allenatore farà 7 punti più dell'Inter di Mancini è probabile che arrivi al terzo posto. È probabile, perché se poi succede come quest'anno, che il terzo posto va via 80 punti, può anche arrivare Guardiola e con 74 tu arrivi quarto. Arrivi quarto. Allora ragazzi, aggiorniamo la seduta, ci risentiamo alle 18, stessa formazione per tutti i convocati alle Olimpiadi. Io ringrazio Giovanni Melchiori in redazione. Qualità. Insieme a Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone sempre in redazione. Allora, 18 tutti qui con me, Giovanni Capuano, per tutti convocati alle Olimpiadi. A più tardi. E anche Leo Turrini. Anche Leo Turrini, certo. Have a nice day.